Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, il nostro viaggio ci porta al Premiare Te, un evento di qualche giorno fa, lunedì, nella sede di Confindustria, che suggella in qualche modo una mia personale teoria, che è la seguente. C'è un consumismo compulsivo, che è quello che ha caratterizzato l'industrializzazione cosiddetta, il benessere cosiddetto, l'esplosione dei consumi. Consumiamo di tutto, la pubblicità e i media hanno contribuito ad accrescere questo bisogno primario. Oggi, ed è questa la teoria, assistiamo invece ad una fase critica che ci porta verso un altro tipo di consumismo, che è quello, il consumismo consapevole, cioè compriamo, vendiamo, vogliamo sapere che cosa e chi ha prodotto, quanto costa, se è energeticamente sostenibile, se è biodegradabile, eccetera. Il passaggio dal consumismo compulsivo al consumismo consapevole probabilmente segnerà anche un miglioramento della qualità della nostra vita. Come avviene? Innanzitutto uno degli strumenti, non l'unico, ma certamente il più importante, è proprio la comunicazione responsabile. Da Confindustria il manifesto della cultura d'impresa, mission number one, comunicare il valore dell'impresa per il progresso economico e civile. Non fiori ma opere di bene, Luxottica con più valori e soldi ai dipendenti vince il premio Arete alla comunicazione responsabile. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e del Waka Waka, i frati minori di Sicilia hanno trovato un modo di parlare ai giovani che piace anche all'UNESCO. Per il Waka Waka dei frati dovete aspettare qualche minuto alla fine della trasmissione. Allora, tutto questo che avete in qualche modo concepito, avvertito dal sommario, è la comunicazione responsabile del Premiare Te, che ha tenuto la sua settima edizione per premiare le imprese, non solo le imprese pubbliche ma private, ma anche quelle pubbliche, le no profit, le fondazioni, che hanno un'attività di comunicazione responsabile che rende più credibile questo percorso. Vediamo i primi premiati e poi parliamo col presidente della Commissione Cultura Confindustria, Alessandro Latezza, che intanto salutiamo. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, vediamo chi sono i primi tre premiati e poi parliamo con il presidente Latezza. Premio Arete assoluto a Luxottica. Premio Arete assoluto a più valore per i dipendenti, iniziativa di Luxottica. Il progetto Welfare dell'azienda veneta punta ad alleviare la sofferenza da quarta settimana dei dipendenti. Si traduce in 100 euro in più al mese in beni e servizi per chi lavora in Luxottica e per le loro famiglie. Asili nido, buoni libri, buoni per fare la spesa. Premio Commissione Cultura Confindustria Internet a Edison. www.edisongeneration.it si aggiudica il premio Commissione Cultura di Confindustria Internet per la community dedicata ai temi della sostenibilità, la conservazione dell'ambiente, il risparmio energetico, la biodiversità, l'impegno sociale, i diritti umani. Il network rappresenta il diario di bordo di tutti i progetti realizzati, con aggiornamenti in tempo reale e contributi di autori esterni. Premio Confindustria alla comunicazione sociale a Ania. Ania si aggiudica il premio Confindustria alla comunicazione sociale per Pensa a guidare, la campagna di comunicazione che si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti italiani sui pericoli relativi alla guida distratta, fenomeno conosciuto ma ancora poco percepito in Italia. Certo, qualcosa abbiamo fatto vedere, qualcosa si può fare, ma indubbiamente tutto nasce all'interno dell'impresa, di questa nuova cultura. Presidente, voi avete presentato lunedì scorso proprio in questo senso, credo anche in questo senso, un manifesto della cultura d'impresa che diventa un po' la lettera scritta delle imprese italiane sostenibili. Sì, nell'occasione della nona settimana della cultura d'impresa, ma soprattutto nell'occasione del centenario di Confindustria e in connubio con i premi Arete, l'idea è stata quella di mettere in evidenza il frutto di un lungo lavoro di elaborazione della Commissione Cultura, che è un manifesto della cultura d'impresa. Pochi semplici principi, non un decalogo, non un regolamento, un documento di discussione per attivare un processo di riflessione, di consapevolezza nel sistema delle imprese, con l'idea che nell'occasione di un centenario noi abbiamo l'obbligo di rievocare una lunga storia, ma nello stesso tempo di aprire uno sguardo chiaro, aperto e anche fiducioso verso il futuro, nonostante i tempi difficili che stiamo attraversando. Infatti stavo pensando, avete avvertito proprio adesso l'esigenza, avete lavorato sodo anche sul manifesto della cultura d'impresa proprio nel momento più critico dell'impresa. Non c'è dubbio, questo per una questione di lanciare appunto un segnale di fiducia anche nell'affrontare argomenti delicati e difficili, come per esempio quello del rapporto tra impresa familiare, un valore del nostro sistema, e necessità nello stesso tempo di affrontare processi di crescita dimensionale o di ampliamento delle attività delle aziende per dargli più respiro e profondità, ovvero anche temi più generali come quello della legalità, non solo come valore etico, ovvio, ma nello stesso tempo come principio e fondamento essenziale di una libertà di mercato che non può esserci laddove ovviamente esiste la sleale concorrenza di chi si appoggia su forze criminali e illegali. Avete fatto anche un altro passo importante in occasione di questa giornata, perché se ne parla davvero tanto sempre delle piccole e medie imprese che sono un po' l'emblema di questa nazione, ma spesso vengono citate anche a sproposito. Non è questo il caso, va da sé, ma ha trovato originale e significativo che abbiate fatto un lavoro, anche questo approfondito, sugli indici, sugli indicatori di sostenibilità per le PMI, cioè dall'interno di Confindustria, quindi non una visione superficiale ma profonda, avete dato delle indicazioni in questo senso, specifiche per le piccole e medie imprese con la LUIS. Sì, abbiamo definito con un fondamento scientifico ma anche con il contributo di esperienza delle grandi imprese che hanno familiarità con questi argomenti, una griglia di rendicontazioni di sostenibilità per le piccole e medie imprese che sia di facile impiego, di facile accessibilità per qualunque impresa. Questo per diffondere concretamente e operativamente la cultura dei bilanci sociali, la cultura della responsabilità sociale in qualche maniera evidenziata e espressa attraverso dei documenti, nel convincimento che nelle piccole imprese ci sia già molta responsabilità sociale. Si tratta semplicemente di farla venire fuori, di farla venire in chiarezza all'imprenditore in primo luogo e all'esterno in secondo luogo. E devo dire con qualche elemento di soddisfazione, perché da un lato con l'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, stiamo discutendo del fatto che questo possa diventare un allegato di bilancio utile per il rating bancario, ma anche una grande soddisfazione perché c'è grande interesse a livello di Ministero dello Sviluppo Economico, di OCSE e di Commissione Europea per questo lavoro, come a dire che sul piano culturale il nostro sistema è in grado di offrire degli elementi di riflessione, di dare dei contributi, per cui non siamo solo ricettori passivi di messaggi e di in qualche maniera anche comportamenti che ci vengono suggeriti dall'esterno o dagli standard internazionali, ma diventiamo noi stessi protagonisti attivi di un processo di cambiamento. Beh, lei ha un po' anticipato, anzi ha già risposto ad un'altra osservazione che le avrei proposto, che era questi indici di sostenibilità diventano patrimonio dell'azienda e diventano facilitatori nel rapporto con la banca. Quello che è accaduto lunedì, fra l'altro, è che i presidenti di Confindustria e di ABI, ma anche lei come presidente della commissione, piuttosto che Boccia, Lobel, insomma gli stati maggiori di Confindustria e ABI stanno lavorando insieme per dare una risposta concreta e operativa, non solo politica e quindi a volte retorica, alla domanda di sostegno finanziario delle piccole imprese, alla luce di questi atteggiamenti di sostenibilità. Ovviamente non do per scontato e assunto il risultato, che deve essere vagliato ovviamente dagli organismi dell'ABI, ma certamente abbiamo avuto un'ottima accoglienza in ABI e quindi sono fiducioso che noi consiglieremo questo risultato, che è importante non per il semplice fatto che si voglia guadagnare un piccolo vantaggio all'azienda, ma per far capire che la responsabilità sociale non è altro dell'attività dell'azienda. Deve essere in qualche maniera un elemento di vita ordinaria e in quanto tale essere anche valorizzato nei sistemi di relazioni con gli stakeholders, tra i quali ci sono ovviamente anche le banche. Molto bene, grazie Presidente, buon lavoro, ce n'è davvero tanto e lo state svolgendo egregiamente. A presto, la ringrazio di aver partecipato. Grazie, Presidente. Buona giornata. La terza, noi vi facciamo ascoltare altri tre premiati e poi cambiamo argomento, nel senso che usciamo da Confindustria e andiamo nella ricerca. Premio Commissione Europea alla Comunicazione Pubblica a Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate si aggiudica il Premio Commissione Europea alla Comunicazione Pubblica per il progetto Fisco e Scuola. Più di 1000 le iniziative, visite guidate agli uffici, incontri con i funzionari, progettazione di percorsi di formazione, incontri e seminari, progetti interdisciplinari, giochi di ruolo, per educare al rispetto delle regole fiscali gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Premio ABI alla comunicazione finanziaria a BNL. BNL BNP Paribas si aggiudica il premio ABI alla comunicazione finanziaria con l'iniziativa Metti in conto un albero, che coinvolge tutte le agenzie BNL di nuova apertura. Per ogni nuovo conto corrente aperto nei primi 6 mesi, BNL dona un albero alla città, contribuendo a compensare le emissioni di CO2. Premio Il Sole 24 Ore alla comunicazione d'impresa a A2A. A2A si aggiudica il premio di Il Sole 24 Ore per la comunicazione d'impresa con E-Moving, progetto di mobilità nelle città di Milano e Brescia che coinvolge privati e aziende nella sperimentazione dei primi veicoli elettrici Renault. Nelle due città lombarde è stata avviata la realizzazione di una rete strutturata di circa 270 punti di ricarica da fonti rinnovabili. Davvero belle storie quelle che sono state premiate. Danilo De Vigili di RGA, ciao, eccoti con noi. Ciao Enzo. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Abbiamo sentito nella prima parte di Ferribot Alessandro Laterza, presidente della Commissione Cultura di Confindustria, che ci ha sostanzialmente spiegato come la responsabilità sociale dell'impresa non sia una velleità, tantomeno di Ferribot, ma una scelta ormai strategica, precisa anche di competitività delle imprese sul mercato per un futuro migliore. È chiaramente un'espressione retorica, però chi ci lavora dentro queste cose sa che stanno avvenendo. Uno di questi è Danilo De Vigili di RGA, che abbiamo già salutato ma risalutiamo. Ciao Danilo. Ciao Enzo. Che ha curato con la sua società il rapporto sulla comunicazione responsabile, cioè come si vede il mondo visto da rete. E i risultati in due battute sono stati, Danilo? Sì, allora innanzitutto questo rapporto l'abbiamo curato un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche Carlo Cicci e i risultati sono sostanzialmente questi. È ancora un fenomeno per grandi imprese, c'è una buona componente di aziende locali e nazionali, ma il 50% dei candidati sono grandi imprese, ci sono alcuni settori più rappresentati, la finanza, l'energia, il farmaceutico, e un altro elemento importante è di che cosa parlano, e qui c'è una differenza rispetto ad un confronto che abbiamo fatto all'estero. In Italia si parla soprattutto di comunità e ambiente, mentre all'estero si parla al contrario più di ambiente che di comunità. Questo secondo noi è dovuto al fatto che in Italia responsabilità fa ancora rima con solidarietà, mentre all'estero l'ambiente diventa un elemento trainante della comunicazione anche per il conseguimento di vantaggi competitivi. Questo è quello che si vede guardando i peraltro 180 aziende pubbliche e private varie che si sono candidate ad Arete, poi c'è fuori da Arete indubbiamente una realtà, o meglio non c'è una realtà, la comunicazione responsabile, che potrebbe essere chiave per uno sviluppo civile ed etico, non ha delle griglie, non ha dei binari su cui viaggia, delle regole condivise. Sì, diciamo che questo è il lavoro che ci apprestiamo a fare in futuro, perché la nostra intenzione è quella di continuare a collaborare con Arete su questi temi e di inaugurare un osservatorio sulla comunicazione responsabile, che dal nostro punto di vista potrebbe avere due chiavi di lettura. La prima è quella che dicevi tu, cioè quali sono i valori che caratterizzano una comunicazione responsabile. In realtà esistono dei codici deontologici di categorie professionali, penso alla carta di Treviso per i giornalisti, oppure codici deontologici per il cosiddetto marketing, però è vero che manca una visione d'insieme. L'altro aspetto invece è declinare il concetto di comunicazione responsabile nella comunicazione che le imprese fanno delle loro performance di sostenibilità. Okay. E qui ne abbiamo avuto un assaggio ad Arete, perché ci siamo dedicati solo alle prime aziende, quelle vincitrici, e abbiamo visto che di strada da fare ce n'è, nel senso che ci sono delle punte di eccellenza, ma manca un po' di sistematicità, perlomeno tra il campione di aziende analizzato, che erano poche, per cui diciamo il numero non è statisticamente rilevante. Danilo, stai un attimo con noi che completiamo la batteria dei premiati con quello, con l'ultimo, forse anche diciamo noi simpaticamente il più atteso, il premio UNESCO. Quest'anno nelle te è entrato anche a far parte di UNESCO, ovviamente la rappresentanza in Italia, che ha dato un suo premio speciale a coloro che hanno la campagna che ha meglio interpretato il titolo dell'anno, che era l'avvicinamento delle culture. L'anno 2010 per UNESCO è l'anno dell'avvicinamento delle culture. Ecco, sentite chi ha scelto UNESCO di premiare quest'anno. Premio UNESCO 2010 a Frati Minori di Sicilia e Sorelle Povere. A Parola è Parola è un musical itinerante messo in scena dai Frati Minori di Sicilia e le Sorelle Povere. Attraverso un linguaggio diretto e informale, basato sulla musica contemporanea e sul ballo, i religiosi diffondono il messaggio della carità e della solidarietà, riuscendo a sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda, soprattutto dei giovani. This time for Africa. Fra Jimmy? Ciao Enzo, pace bene. Pace bene, Fra Jimmy. Io ogni volta che sento ormai Waka Waka penso a voi, perché ho avuto la fortuna di vedervi quest'estate a Marzamemi, mi sono immediatamente coinvolto nella vostra storia, perché non so, non c'è niente di più bello che vedere dei frati e delle sorelle povere cantare e ballare questa canzone, che poi ha un significato profondo di solidarietà, non è una canzone banale, e vedere tutti questi ragazzi che ballavano di fronte a voi. Cioè, è una delle poche cose in questo paese che ti allargano il cuore, come si dice. Abbiamo scelto il linguaggio dei giovani per annunciare quello che è un messaggio universale, un messaggio che accomuna ogni uomo, e siamo sicuri che questo messaggio appunto è arrivato. Lo può accogliere ogni cultura, ogni linguaggio. Abbiamo avuto la fortuna in questo di incontrare un signore che non mortifica nulla di quello che è pienamente umano, e quindi la gioia di stare assieme, anche appunto il linguaggio dei giovani, il canto, il ballo, è un modo per stare assieme, per appunto annunciare la carità che ci fa appunto un cuore solo. Fra Jimmy, questo che lei dice è bello e condivisibile, ovviamente, forse anche da chi non è credente, non è uno dei linguaggi prediletti della Chiesa, però voi siete abbastanza degli innovatori su questo. Sì, probabilmente in questo senso siamo un po' innovatori, però mi piace sottolineare che anche noi siamo Chiesa e siamo all'interno di questa Chiesa, e forse siamo un linguaggio che nel passato era magari anche un po' contestato, però è uno dei documenti del Vaticano II, la Gaudium et Spes, parla di prendere tutto quanto di buono ogni cultura ci dà per poter annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Forse a volte come Chiesa abbiamo dimenticato quello che la Chiesa stessa ci ha detto più di 40 anni fa. Grazie. Fra Jimmy, dobbiamo salutarci. È un peccato, purtroppo, voglio dire, ma comunque sicuramente avrò occasione di rivedervi e ci terremo sempre in contatto. Mi raccomando, continuate. A presto, Fra Jimmy. Pace bene, ciao. Pace bene. Danilo, questo non è questa comunicazione responsabile, non abbiamo più tempo, ma consentimi, dal nostro pulpito milanese, no, dei grandi aziende che fanno business, una voce fuori dal coro. Ma assolutamente sì, diciamo che è un esempio che potrebbero seguire anche le imprese, nel senso che è una comunicazione molto efficace questa, e quindi se la comunicazione è efficace consente poi di veicolare messaggi che alle imprese servono per conseguire dei vantaggi competitivi in un certo senso, perché questo è l'obiettivo della comunicazione di impresa. E anche della Chiesa che comunica la parola di Cristo. Grazie. Danilo, ci sentiamo presto, arrivederci. Grazie a te Enzo, arrivederci. In redazione è Anita Panizza, come al solito, e in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo il sito radio24.it, dove è possibile riascoltare Ferribot. A risentirci.